Capitolo 21. Ferrara, 4 febbraio 1547. Il deposito segreto dei librai Usche è sottoterra. L'unico accesso è una botola di non più di un braccio di diametro, mimetizzata tra le assi del pavimento. Poi si scende per una scala, ritrovandosi in quella che sembra una cantina. Ma il locale è asciutto. Gli Usche hanno pensato a un modo ingegnoso per evitare che i libri conservati qua giù, quelli che potrebbero risultare più scomodi e pericolosi, non vengano mangiati dall'umidità. Boccaporti di entrata e uscita consentono all'aria di circolare, tanto che non trattengo i brividi. È più freddo che in superficie. Il nostro stampatore ci fa strada con una lanterna fino a una catasta di volumi impilati a regola d'arte. Ecco qui, signori, 1000 copie pronte per la spedizione, le prossime tra meno di un mese. Miketz indica metà della pila. 500 copie verranno a prelevarle i miei incaricati tra qualche giorno e andranno imbarcate sulla costa. Le altre le prendo subito e porto a Milano con me. Vi farò avere i rendiconti entro Pasqua. Usche lo interrompe. Lasciatemi 100 copie. Credo di poterle vendere qui. I tratti mediterranei risaltano alla luce della lanterna. Prendetele dalla mia parte allora. La carrozza è qui fuori. Potete caricare subito. Risaliamo nell'elegante officina dei più importanti stampatori giudei di Ferrara. 6 torchi, una dozzina di operai indaffarati. Mi incanto a guardare la sincronia dei movimenti. Infilare la matrice dello stampo, pennellarla d'inchiostro, inserire il foglio sul tornio e poi abbassarlo e stringere bene per imprimere i caratteri sulla carta. Poco più in là si compongono le pagine, collocando i caratteri uno a uno nei tasselli predisposti, pescandoli da grandi cassettoni, con un occhio al manoscritto e un altro ai piccoli pezzi di piombo. In fondo alla catena, i legatori. Ago, filo e colla di pesce danno forma compiuta ai volumi. Miketz mi si accosta con indifferenza. A bassa voce, gli Usche pubblicano esclusivamente opere inerenti al giudaismo. Per il beneficio, hanno fatto un'eccezione. Ghigno. I favori reciproci di un'immensa famiglia. Sì, è la forza persuasiva di un buon affare. Usche chiede qualcosa in spagnolo. Sì, potete procedere. Qui fuori c'è mio fratello Bernardo. Penserà lui ad assicurare il carico. Lo stampatore sembra titubante. C'è un'altra cosa, Don Johao. Un'occhiata di Miketz lo convince che può parlare in mia presenza. Mi è giunta una richiesta strana. Dalla corte. Una copia del Beneficio di Cristo. Ci guardiamo perplessi. È ancora Miketz a parlare. Il duca? No, la principessa Renata, la francese. Si interessa di teologia. Chiavenna, Repubblica Retica, 2 anni fa. Camillo Renato e il suo circolo di esuli. Gli portavo i libri da parte di Perna mentre scendevo per la prima volta in Italia. Camillo Renato, alias Lisia Fileno, alias Paolo Ricci. Siciliano, letterato. Filo riformatore, predestinazionista, sacramentista, celebrava l'ultima cena con un banchetto, destando scandalo in chiunque. Quando lo incontrai, stava ospitando Lelio Socini e altri letterati esiliati. Rimasi lì poco tempo, ma abbastanza per sapere che aveva girato l'Europa. Era stato a Strasburgo da capitone e a Bologna l'avevano inquisito. Condannato al carcere duro a Ferrara per eresia, era riuscito a evadere grazie all'aiuto di una nobil donna di corte, la principessa Renata. La sua riconoscenza si era spinta fino ad assumere il nome della sua salvatrice. A Usche. È importante farle giungere oggi stesso una copia. La prendo dalla borsa. Sullo scrittoio di Usche trovo penna e calamaio. Scrivo sulla prima pagina. Non v'è buona opera o azione che possa eguagliare il beneficio di Cristo verso gli uomini. Solo la grazia ricevuta dal Salvatore e il dono incommensurabile della fede possono segnare il destino di un'anima. È questa rinascita ad accomunare in Cristo i veri credenti. Con la speranza di incontrare la dama che ha salvato un comune amico, Tiziano Rinato, locanda del Pan. I due giudei mi guardano esterrefatti. Consegno il volume a Usche. Questa è la copia. Amichez, lascia fare. Divertito. Da quando ti sei fatto crescere questo barbone ti comporti in modo strano. Me lo hai insegnato tu a coltivare le amicizie altolocate. scuote la testa. Saluta lo stampatore in spagnolo. Fuori Bernardo e Duarte ci stanno aspettando. Le casse di libri sono state caricate e assicurate con cinghie. Joao mi cinge le spalle. Hasta luego, amico. Ci vediamo a primavera. Saluta il piccolo perno da parte mia. Un cenno ai due compari, mentre la carrozza si muove.